Soca, soca. E bello, a chi sei? Sento buffetta. E io, e beh, le campagna, a russire. Io sono qua a casa. Sono un po' raffreddato, sta anche per venire la tosse. No, siccome doveva scendere a tagliare l'erba, invece non funziona col cavolo del cipugliatore. Adesso, domani mi dirigo a guarnizione, lunedì la cosa. O se no lo porto da quello della porticuglia e me lo posso fare da visto. Ah, cosa hai detto? Al telefono ero, grazia. Ah, deia. Capito mi hai. Capito sì. A lei hai mangiato roba arrosto? E cosa? Un piatto di tortellini mi ha mangiato, per primo. E una bistecca arrosto. Però dalla bistecca ti scala nell'osso, mi ha mangiato il pezzo del centro. Non ne mangio grasso io. Un pezzettino con mezzo panino, la verdura, la frutta e il dolcetto. Ho capito. No, io a pranzo ho mangiato, ma fatti marina però. Gli occhietti con gli asparagi, panna e pancetta. E poi ha fatto la frittata di asparagi. Poi ha fatto le rollatine con la patatina nel forno, ma non le ho mangiato. E poi ci siamo fatti una bella e grande. Ho preso le fragole lì a Pascoli, un chilo, una cassettina piccola, era un chilo. Abbiamo fatto la Macedonia. Anche lui. Ieri le ha preso un pacco umano. Ha fatto la Macedonia e stamattina c'è la campagna. E un bicchiere di quelli di plastica, dell'acqua. Con un po' di Macedonia, là. Fatto massaggiarla. Perché mi avevo mangiato già tre mandarini di campagna, capito? Campagna mi è punta per mandarina, là, però mi ho mangiato solo tre mandarini come frutta e un po' di quella macedonia che ha fatto, ma un po' come quei bicchieri di plastica dell'acqua, lui l'ha pieno, perché è un bel dolce, c'è lo zucchero. Capito, certo. Poco fa l'ho mangiata, amico, una merenda. ragazzi, sarà bene un portario solo. Forse ti conviene. Quando devi andare a parte l'intervento, se sei influenzato non ti ne vado, Nimi. Lo so, grazie. Io passo con Biggio, io sono raffreddato. Leggermente, sono raffreddato proprio a un bel. Poi c'ho mal di gola. Mi sta bene. Cartosso, mi sa che ve lo faccio veloce, dai. Se no da poi un casino. Tanto bisogna farlo due volte al giorno, vero? Sì, quando si è pizzicato forte io lo facevo la mattina e la sera. Ultimamente lo stavo facendo solo la sera una volta. All'ospedale mi ribadiani. Se vuoi caradi. No, vabbè, se vuoi caradi, due volte al giorno si fa la cosa. Ma l'ospedale me lo facevano o con il flaconcino mi davano o tipo la pelle per piede sallo, no, capito, cosa di bussi, una bottiglietta non grande e grande, come un contenitore di stecchino, una bottiglietta così. Beh, ho capito, visto che sto prendendo la soluzione cosa? Dai, è l'altro. Qua, allora che soffri di qualche allergia, a chi avago il polline, l'avete anche al televisore, ci sono un bel di allergie, e ti va di seffitto, a meno che arriva la sera, non ti sei ritirato il dado, abbigliato freddo. No, me lo faccio da ciclo alla macchina, capito? Vabbè, già era maniche corte dentro, ci stava bene, come sono coperto sono uscito. Vabbè, però a male che cosa bruci i denti. Vabbè, magari con l'ambiente già era caldo, con tutta la gente mi sarà assata. Ma infatti stava bene, dai, non è che c'era freddo. perché poi mi sono messo a cantare, anche con la gola messa male, ti vado a far Napoli a me, potevo starmi zitto. Aspetta un attimo, grazie che me lo sto preparando. Ehi, fai, fa. Oh, grazie a me. Sì, mi sto bevendo quel cavolo di bustina, che schifo, pare gazzina, ma non mi sa foraccio puzzinoso. Mi ero recato la radio in terra, boh. Adesso si è piegata un po' l'antenna. E cosa c'è quella cosa? No, io in questa radio c'ho quella flessibile, la bici come ci si piace. Quella flessibile cioè allora? Però si è un po' piegato, l'ho riaddrizzata. Già stai uscendo bene. No, io me l'ho ordinata l'altro giorno, una base magnetica piccolina per il PMR. Adesso funziona bene. Ho capito, aspetta grazie che mi prendo il coso, il l'aerosol. Ehi, hey, you. Hello. Beh, grazie. Aspetta un attimo. Dormito, sì. Sparito, sì, grazie. Aspetta, sto piegando questa roba qua, dai entro su. E bello, fatto l'aerosol. Ehi, però ci vuole quello, come si chiama mai quello per la tosse? Bronco? Bronco pare? No, come si chiama quelle cose per le... Ah, il Clenil? No, l'altro. Fluibron, Fluri, che fa bene per la tosse. Ma non lei, nell'aerosol io ci metto, qui su, Fluibron, chissà, insomma, quella pialetta. Poi ci metto 10 gocce di broncosparma, una bottiglietta con il contagucce. E poi ci metto l'acqua, quella dentro la bottiglia, come si chiama? Un po' di quell'acqua, 10 cc ne metto, anche 5 là. Le sciocchette che mi posso l'aerosol. Vabbè, anche questo che mi ha detto più con Favaria, non mi ricordo adesso, Fluibron, quello lì lo stesso già fa bene, però fa due volte al giorno, e se no mi stava andando un attimo questa cosa, mi vuole, mi è sembrato la tosse, ma poi sono tutto intasato, o sono allergico a qualcosa, devo fare dei controlli per vedere. Oh, e vado pulito da campagna. Da garage ho fatto una prova a pigliare, a salirmene da garage una rivettatrice nella scatoletta, sarà stata 20 centimetri, ma 20, e le chiavi a boccola blu, a boccola, una cassettina rettangolare, sarà 40, 50 centimetri per 30, ha giubato la strada di un garage con chi di cose in mano, capita, meglio tu gli sta a fare una lingapura, perché è il peso, capito, ma che peserà 10 kg là, forse di meno, le chiavi pesano, quelle a cricchetto sono, capito, e ho fatto solo la salettina, mi dai garage, sono arrivato in punta della bocca biscia. Beh, grazie. Sì, è ricoperato da poco, non è che ci sta più bene. Ha dato una regolata. Questi pesi. Se non puoi, non puoi, non te quello insiste. Ma io venuto una prova, vabbè, aspetta, una mano e sono stato rubato, ma via i sei due fatture, chissà va di gente. E l'altra mano va via lo zaino e dentro c'è la bombola che uso quando esco, capito? E chi sai a pensare ma stessi quando è piena? Già è piena, mi vira già va, la sto consumando, perché se non mi si consuma da sola, a domani viene poco, capito? Allora me la sto consumando adesso. Eia, mi aspetti un quarto d'ora, grazie. Ma so qua, vai, già la giù mi fa, non ti preoccupa, ma ti credo, so cosa più bene. Grazie, no. Dimmi. Acci sei acci. So che no, che non fa di gusto, anzi, mi è rimasto di burimmi quei finocchietti che ho fatto di campagna per metterli nel contenitore, nel pozzetto, ma me lo faccio domani. E ho finito là. Boh, sono levato la gamba e su, ma non ho fatto una storta né niente. All'altezza del ginocchio lì. Adesso vado a piegare la gamba e mi fa male il ginocchio. Cosa ha fatto? Cosa che mi sono sui denti? Sono dolori che vengono così qui, ma mi ne vedi a mezzo dolore. Ti apre la porta. Io non posso. Lui se ne va a fare, stava a me figlio la cansavo. Ah così mi grazia, stavo sollevando la gamba, no? Cioè piegando il ginocchio, non riuscivo a piegarlo, mi fa male. Eppure i colpi non li ho preso, assolutamente. Adesso mi fa male. Boh. Sono stiramenti di nervi qui. Magari se ha preso, ha stirato la gamba, anche camminando. Ciao fa, me lo faccio a me per i boschi. E camminando così, pure qua in casa. E non vedo che mi blocco un buco. Beh, lo sa che anche per me l'anzianità si sta facendo sentire. Sì, cazzo, andai in buco. Allora mi hanno detto, ripeto, sì, cazzo, sei così giovane lì ancora. Ed è già pensionato. Sì, e arriva un po' così. Di chi su marciume che fa giù. E cosa ci avrà? Ci ho cominciato a fare le leggi, beh basta! Perché loro non lo sanno, capito, chi su è? Poi giovano, è travagliato, no? Ma giovane, a 63 anni mi ha detto giovane, magari, guardi io mi sarei voluto lavorare. Non me ne volevo neanche andare dal posto di lavoro. Purtroppo sono stato costretto perché la falegnameria l'hanno uccisa, se no io volevo rimanere ancora lì a lavorare, perché mi andava bene, almeno avevo uno svago anche se lavoravo, però ero fuori di casa, mi muovevo e facevo in casa, avevo un posto nulla e mi giocavo a gabelli. Ma proprio guarda, il tempo è allucinante, di solito io mi già come sento caldo, stamattina c'era un po' di caldo, era Capassori, stavo schiumando, però non mi sono scoperto, se no di solito io ho maniche corte, mi abbraccio, sento caldo così, però l'arietta è fresca sempre. No, io va giù, la maglietta è cotone sotto in campagna e la felpa col cappuccio, con la felpa militare. I jeans, ed ero bussato, avevamo mangiato fuori, era manca fuori della veranda, là, sotto un gazebo che c'era rotto il tendone, e la messa si stanno arrampicando tutti i rami dei fiori, capito? E poi quello lì già diventa tutto con i rami, diventa, si copre, già mezzo coperto da questi fiori a campane grandi, sono delle campane quando escono i fiori, al tempo suo, campanelle sono, grandi per ombre. Mia cognata ci ha messo i rami da piccolini, avasso cresciuti e le prendi la bovida praticamente, è tutto in giro, e c'è la facciata libera. E lì sotto c'è un tavolo, sarà 3 metri. Ma molte volte mangiamo lì. Ho capito. Ho capito. Ma non lo guardi mai grazie a Canale 5. Se mai andiamo poi dalla bionda. Si vede che è sciuvarata, non è preso lì, donne, capito. Proprio bello, una bella donna. Una bella donna. Ce lo guardo, ma da quando per Barbara Russo non gioca a Baidini. Mi guardo il telegiornale, o se no Paolo Bonolisi, mi guardo. Ah, quella bionda c'è da Paolo Bonolisi, quella lì no, è in gamba, già l'ho vista. Ieri l'ho vista, è in gamba. Chissà che accarezza all'uomo, chissà che posa dire. Non stai guardando adesso, sì? No, adesso no, non vedi cosa. Ma sono sta guardando in camera, io no, non è acceso qua. Beh, ho capito. Questa sera volevo uscire a trovare un amico, a Pietrosanna, quello che canta le canzoni del Sonos. Facciamo la passeggiata. Qua lì punti, dove c'è il pit stop. Dove rimane il pit stop, grazie? Ehi, non te lo so dire, ci sono passato stasera lì punti, che stavo accompagnando a mia figlia a casa sua, perché c'era anche mia figlia, quella che abita a Vanolo. Normalmente quando si chiama è Sassuola. Comunque dopo i punti per andare verso quella strada che c'è a Bancali, quando sei quasi per arrivare alla strada di Bancali, svincoli sulla destra, lì fai un rettilineo lungo lungo e cazzi chi in fondo. Ehi, ehi, ehi, ma si guarda, dopo devi prendere freddo già su questo posto qua. No, vecchi, mica c'è già freschetto, mi paventa poco fa, si è speso quella roba, c'è già freschetto, infatti ho chiuso le vetrate della veranda, a chi se no entra l'umidità, cioè era tutto il giorno aperto ultimi, ha voglia in entrata di aria, pure qua in cucina ho lasciato la finestra, la porta finestra vasista, nelle camere, era tutta l'aria aperta, tutti, stati non vedrà nessuno. Così almeno ha circolato l'aria pulita. E beh certo, aria pura. E vabbè, l'aria pura è in campagna, no qua. Ehi, vabbè, io via è un'altra buglia di aria. Però in genere lascio sempre aperto quando non ci siamo, capito? E anche quando ci sono già apro, ma se buglia di apro, pure d'inverno in camera da letto. La finestra aperta. Anche se c'è la volgibile abbassata, c'è la controfinestra con la zanzariera, poi c'è la volgibile e poi c'è la finestra con il vasista. Ha voglia di aria, no, non chiudo io proprio del tutto, capito? Lascio sempre che entra l'aria, oh, io voglio aria, non è compreso. Beh, certo. Senza, ma rilassi qua con la cesta. No, lascio. Mettila uno. E lasciala. Lasciala così. Grazie, è tutto già rapido. E anche qua, infatti, da poco fa, quando siamo venuti, l'ha accesa la stufa, dopo che abbiamo ordinato borse e borsetti. E mi sta a mani verdi e dorme sempre in carico la campagna. Allora mio padre ha fatto mezza busta di finocchietti, domani li pulisco bene, li lavo e me li metto nel contenitore nel pozzetto. Quelli li adopero quando faccio la carne, anche il pollo in tegame, capito? Quando faccio minestrone nell'agnello, nei carciofi, finocchietti. Anche nella minestra pazza, fagioli e minestra e carote, ci mette il finocchietti, lo taglio a dadini, là, diciamo. Allora quanto lo saporisce, gli dà quel sapore proprio fresco, buono. Vabbè, te credo. Oggi non si è fatto di nessuno. Tutti morti, so, grazie. Come mani sciupi la frequenza. Ehi, con la giornata bella che ha fatto, chiudi là dentro senza andare in tutto caso. Già dalla fraghetta che entra, a dici fa di Torraeva, domani si salva, però mi sembra da lunedì fa di nuovo brutto tempo, Vabbè, forse che si va in piatti, che si la frutta. Ah, che ci si sbaglia, so che in casa, sabbe se le bici che esce Roma stessi, già so che in macchina. No, non me ne bongo di questi problemi, ma per dire, no, capito. Ti voleva dire, a te occorre qualcosa, ho due decoder di televisori, decoder si chiama, con i vari telecomandi, anzi, vieni su di sopra più telecomanda che l'altro se l'aveva lampato. L'ho trovata in garage quella busta, me l'ho salita qui a vedere cosa vi la dentro. E veda un rubinetto miscellatore, due decoder, poi cosa veda? E poi cosa cavolo c'è? Ah, e due staffe che attacchi le ruote che si girano, assovimi, roba che c'avevo da molto lì in garage. Ha detto che stanno cacchetti, e ho detto se sento qualcuno glieli do, fanno la pazzina, perché funzionano tutti e due, io non me ne posso mica. Vabbè, tienili grazie, me li prendo io, posso sempre servire. Sai che molte volte il televisore si brucia da cosa che c'è all'interno, per non buttarlo nel televisore si attaccano di quelli e si usano, non li buttare, li prendo io, se vuoi. Mi se ti avvicini domani mattina te li do, anche la di buchi, ora è una busta e non viene rotto. Ci sono, gli altri ce li ho buttati, perché gli altri li avevo provati e non accendeva la luce, ha dimenticato di essere aggrappato. Quelli due accendono la luce e dunque funziona. E poi ci sono i telecomandi, li avevo lasciati. Ti si ribolti, tu già li hai dunque. Tanto io televisore così non ne ho, poi in campagna già ce l'ho quello che avevo qua, però ne ho due di quelli grandi, capito, di quelli con lo argento. Ne ho uno nel televisore in campagna e l'altro dentro l'armadio. E di quelli dici, cosa me ne vuoi? Per non buttarli, è un peccato. Sì, vabbè, allora se li vuole variata anche due ti li fura, capito? Cosa? Ho detto non lasciarli fuori, se no passa male, qualcuno ti li frega. No, e se c'è il cancello chiuso e l'ascensore è già serrato, non hai compito. Ci devi tre o che devi baffuzzare su una. E grazie, l'ascensore si chiude la faccia alla Ienne e si dovrà farà. Farà l'unverso, sta sopra, ricare e mi sono accampanito, se lo suona laggiù. E allora quando risale lo apro. Vabbù, mi lo fa guante chi su un ripiano, perché mi duvida. Che si è rampato, l'hai regalato, domani mattina vengo, tranquillo. Siccome io vado, esco verso le 9 da qua, o magari vengo verso mezzogiorno, le 11:30, perché devo salire a prendere a mamma, che domani ci abbiamo a mamma a pranzo qua. Eia, ma può darsi che qualche altro ripiano che ce l'ho qua su nel vano motore dell'ascensore, perché lì c'ho... stecche riavvolgibili, c'ho roba anche lì su, c'ho il pavimento, quello che mi è rimasto di cucina, non sappiamo né pulire se la piazza di chi vi sopra, tanto non me lo tocca nessuno. Poi c'è anche del placcaggio di cucina che avevo recuperato quando hanno demolito giù da mia nipote, me ne ho preso poi e me li ho messi lì su di scorta per qua, per cucina, perché sono uguali, capi? E altre cose c'ho. C'ho anche il ponte, diciamo, là, l'avevo migliato la briccomena. Vabbè, dai, te faccio un salto domani allora. Vediamo, magari verso le 11:30. Io domani mattina salgo lì nel vano ascensore, abbasso la scala retrabile, salgo e guardo, mi sembra che lì ne ho uno di quei ripiani lì, o uno o due, devo abbaizzare, non me la ammento. E poi in garage se ti occorre qualche mensola ce l'ho, anche mensole a mezzaluna, che avevo fatto in falegnameria, da voi non l'aveva venduti, oppure non me ne le ritirate, ma non buttarcele, ce le ho messe in garage, capi? Sono sempre lavorate, sono buone. E sono una, quella semirotonda, mezzaluna, quella è di multistrato, mi pare, se non è immerante, boh, non me lo ricordo, tanto non ne faccio niente. E vabbè, mi vediamo, mi si è rampato un po' di roba la garage. Ma vabbè, non ti preoccupare, quello lì con calma, senza faticarti, non ti preoccupare. Sereno, guardo, già avevo l'altro giorno per quello. Ehi, poi quando comincio appena mettendo un poco più bene, tanto devo accendere, c'è un casino in quel garage, roba la macchina, più si negava e roba è sempre bene. Cazzo, poi c'è quella vasca, va bene sopra la soffaccia, ma non rubo su varia, cazzo, un peccato, nuova, e le lampade che vi sopra, chissà quanta gente si vive. Aspetta un attimino, grazie, mi sto guardando l'incidente che è successo lì punti, che è morto un tipo e morto, aspetta. L'ho visto stasera, rientrando. Sulla ambulanza è morto, che cazzo vuoi c'è la morte, mamma mia, allucinante. Secondo me quello è il destino, il destino. Quello è successo poco fa, l'ho visto quando stavo rientrando ad accompagnare la mia figlia, c'era la polizia, vigili urbani, il soccorso stradale, un bel niente, vedo, un bel di macchina, infatti c'era la macchina, più avanti dove si ferma il tram, nella piazzola, tutta disintegrata da NASA, ha detto, boh, la volta non l'ho vista. Ha detto, porti l'altra macchina di l'hanno buttata, invece ha ricazzicato un immoto. Deve essere proprio nell'incrocio per girare a San Giovanni o cosa è lì, San Giorgio. Via Domenico Millerine, la moto un frontale ha fatto. Sì, ma giri lì dove c'è qualcosa, il campo sportivo e il binario, com'è San Giorgio quello. Eia. E in quell'incrocio, evidentemente, la moto... O stava, perché quella macchina c'aveva il faro tutto fracassato, come stava uscendo dall'incrocio, e doveva essere la moto la pigliata in pieno. Davvero? E allora, per due volo di là se l'ha fatto un bambi, ed è morto sull'ambulanza, infatti c'erano due ambulanze lì, tutte a sportellare, un casino di gente c'era. Comunque ha fatto un frontale. Via paccarizzaia, quando ti chiama ti bisogna andare, tanto non ti può rifiutare. Il destino è destino, e perché gli su di Ganica, mira, se vuoi te lo mando, ce l'ho sul telefono, l'hai arriscato l'anni, stato de Brezza, Emanuele, l'unica mi barichera, era in camera con me all'ospedale, a fianco a me, e lui ha detto, e l'hanno arriscato. Hanno fatto bene, buonasera Luca, buonasera Graziano. C'è scritto, ho visto l'articolo nel telefono, stato di Brezza, senza assicurati fuori, senza ginghi, Giaretti va via Bizzini, non va via i seggiolini, senza assicurazione. E lei da me mi ha detto che non era colpa sua di ripidare. Capita, gli arrovengo io. Boh. E beh, riprendi Giammari. Ehi. No, vi stavo seguendo, mi ha acceso in questo momento. E ho dato la battuta e basta. Qual è successo? Perché, grazie? Un incidente alle punti, l'ho visto stasera rientrando da casa di mia figlia, verso... che ora erano? Delle 5. Più delle 5, là. Ha giunto in polizia, in mezzo alla strada, proprio a Ciaruvar, Varoni, all'incrocio di San Giorgio, nell'incrocio proprio. È morto anche quel postino che era caduto in moto lì a Pedranieda sopra. È morto ieri l'hanno portato, non si è piccoma, poveretto, grazie, è morto. E chissà chi ha colpito il gambo, ce l'aveva inteso già. Eppure quell'amico mio carrossiere lì, della, dove c'è lo spaccio della carne, lì mi Girelli manda papini verso i nonchi. E non se ne è uscito innanzi a un gradino di un marciapiede, se è uscito proprio innanzi a rubare. Alberto si chiamava, quel ragazzo. Era carrossiere, bravo buco, molto buruvissimo. Cazzo, zisci da casa e non vi dormi. Boh, un macello è. Cazzo. Ma è colpa nostra, noi siamo attenti, Un bel di volte tu sei attento e ti ne vieni innanzi l'altro, come te chi su di Canica. A chi su di si ha perso il controllo della macchina, se ci di là sta corsia e ne ha lampato l'alpetta. E l'alpetta ha pigliato in pieno a fianco la macchina e ha morto chi su che era a fianco a chi su. La Zuretta, la cognata, è ancora in coma all'ospedale, quella che ha riparato tutti e tre i figli, vanno a pizzicare i figlioli, c'è pure che è nato Eda e va a pulire ben niente, che è in coma ancora. Un attimo, un attimo. Sai lui. Ia, ia. Secondo me tutto questo è il destino. Vabbè, va, sorvoliamo. Un destino ce l'abbiamo tutti, non si preoccupa. O a chi sa taglio, ma quando d'arrivi, d'arrivi. E quando d'arrivi che dici, dici, aiuto, passa e piglia. Ma ci avevo pensato. Tira davanti e tira a campana, te chi da meno, dici bensì e peggio ancora. Ma, ma a me non me ne affitti, intanto cosa posso fare di più, non si può fare più nulla. Oramai, siamo andati da riciclare. E voi a dire madanzi, ficca la barca va, meglio andare sempre davanti. Dai che vedi, l'importante non ci abbiamo, chi sa la cosa importante? Ah, chi sì, per esempio la un colpo è andato, un colpo secco, un infarto fulminante, pulsante, un divano, un computer, ma ha capisato se lei. Chi sa la moce vera, quando è vicino da me, non come te. Senti che mi diso anni e anni, anni soffrendo, gatta, soffrendo e soffrendo tutti i genitori e chi se feo, No, così meglio molto, passo sta soffrendo sempre io come ti ne ha giusto me e dare fastidio ai familiari e preferibilmente per me sotto terra. Eia, cazzo. Oggi più di prima, gatta, ma ogni di, ogni di ve ne so, ogni tanta di. Troppo di sommorelli, troppo. L'umare chissà, a chi non sono nascendo i piccini, gli italiani non ne vuole fare piccini. Vabbè, in compenso gli avvisori stranieri, che ne sono sfornendi a dozzini d'ogni di. Chi si stranieri che sono arrivati, arrivini a gravi di buio. Non si rimanere arrivati, beh, sta arrivando, insomma. Oggi ho visto un video su internet, vi sono due femmine anziane in una banchina, si posa il suo negro e comincia, ma ve li immaginate voi questi negracci di merda, disegnati di due vecchi. Stanno invadendo l'Italia, a noi italiani, fra poco questi loro diventano gli italiani e noi diventeremo i negri. Oh, vedete, era negro, mi. E non li affava, a parafia di si mette a padrone, ma poi hanno siccome fuori, migra a noi, come stai fatto ieri. Gatta, ma lì si sciopereggia la va, senti brotte sedi. Gatta. Gira, gira, se la diventa il padrone, appeso che lo spittiamo, e diventa magna, da poi morriaggiare il burro. E allora io ci ho pensato, magari chi c'è un negro che è nato in Italia, ed è italiano, fa ragione, Brusietto era negro, magari è nato in in Italia, ed è italiano, e chi ti dice, si sono mandati in fatto, e da me ce l'ha mandato, a chi è tu? Era di colore, no? Quando nasce in occhi uno, è chiaro che è italiano, per cui è tutta un'altra cosa, ma poi vi dico un vecchio che da voi 30 anni, mi pare che da voi dopo 10 anni diventano cittadini italiani, degli che si sono travagliati, si sono comportati bene. Diventano cittadini italiani, lo sai, ma che 10 anni devi rifare. Già lo so, una volta, non so quanto tempo devi stare in Italia a lavorare senza fare macchinate, diventi italiano, gli danno il coso, avevano un momento di silenzio. Ma Luca, aspettatoci, sì, aspetta, Luca. Sono qua, grazie. Beh, ripiglia Brusù di la tua, no? No, stavo leggendo qua questa marito e moglie. Catalogo qua che ho respirato, lucidante. Marito e moglie, lui gli ha criticato la cena che era fredda, lì lo incatena e gli ha dato 35 coltellate perché l'ha criticata. Guardi, vuol dire la coppia era, dall'uomo e chi dalla femmina. Già venne, non gli ha dato di femmine uscire, non era prima, no. E come te chiede, alla casa si è assistato che il marito si è dormito, a chi non ha detto è così, a pugare il migliore, quando si è dormito ha pigliato la cesta e ne ha tagliato il capo, e poi l'ha fatta a pizzi. E da poco, però questo qui è successo in America, adesso non ricordo che città era. Ha fatto bene. Sì, vabbè. Non mi devo fidarsi di nessuno. Solo che è quella. È stata arrestata, è stata condannata alla pena di morte. Mi pare che gli vive la sedia elettrica. Dobbiamo fare una cosa a nero, senza la boh. E invece si è bruciata da Mattesi. Ha morto il marito, va a morire, sarà gli ammuccia. L'hanno condannata alla sedia elettrica, nonostante c'aveva mille ragioni per farlo. Ma che ancora la legge della sedia elettrica? In certi stati in America, sì, non mi ricordo che stato è. C'è la sedia elettrica, c'è la pena, chissà se ti avvelineggiano, ti iniettano il veleno, va. Vai. Infatti chi vive? Si è a morire, cade la buona della sedia elettrica, scioglie il gabbo. Per dire, la sali su internet, in Iran, questo ragazzino di 15 anni, perché gli piaceva la musica europea, la musica nostra, la dimmu, gli ha rimbussato la pubblica piazza davanti a tutti, su dal vivo, mi l'ho visto su internet, Lugabo con lo macete, ho pezzi di 15 anni, e tutti l'altro, tutti qui la piazza, a Baldelli come te macchi. Raffinetti gli vivi, ho messo prima il favoriato gli vivi in messa lì. Sì, ma questo ragazzino stava ascoltando la musica col cellulare e le cuffie, mi è successo, la che da passata l'ha giusto. L'hanno inteso, hanno chiamato che si cavolo di quasi magnacci che bisogna chiudere. E che mi mattesse gli hanno mozzato il capo, hai compreso? Vabbè, chiudo, grazie, dai, buon proseguimento, saluto in casa, ciao, lui ripeto, io chiudo, a domani, se Dio vuole, ciao. Sì, ciao Giovanni, salutoni, buona cena, dai, ci sentiamo domani se Dio vuole, ok, ciao, avanti, grazie. Ciao, buona cena, buon tutto, salutoni da parte di Paletta, a te, alla tua 50, a domani se coincide, ok, ciao. Luca, è il vicchio, se non ce l'ha spruzzatelo, quella spruzzo. Ti apre un po' quello. Ho visto che ti buono in pitorra, in crema. Sì, quella è congestione della sale. E allora tu domani ti compri il vicchio, se chi si deve spalmare in pitorra, e ti faccio quello, l'app, prima di coricarti. Adesso come ti distappa, perché le esalazioni ti vanno tanto alle brutte a faccia, a un azzu, te lo spargi in pitorra, no? E ti buono una maglietta di cottone. Adesso ti si fa di me, quando a mangiare si è tutto sparato, sì. Già lo so, bisogna fare un salto da comprarlo. Qui non lo so se è chiusa la farmacia qua. Ma si briga ancora a bicca, non lo so se è aperta però, basta guardare, se no in via Pascoli c'è. Aspetta che guarda mia figlia, te lo dice subito se è aperta. Sì, grazie, ma però adesso non esco. Mi sono già lavato, mi sono impigiamato, poi da giornata di migliaia, già ho preso il corrente stamattina. Vale domani controllo sul giornale, e vedo che è aperto. Qua è ancora aperto, se ti muovi vai un quarto d'ora e si avvicina a Marina, se giù in bassi. Tanto costa, mi sembra costa. Quanto è che l'avevo pagato io? Quei ricchi di impomata. Mamma tua lo sa, chiediglielo a vedere. Aspetta, dice quanto costa. Così andrei sicuro. Posso controllare su internet? Non si ricorda, ma costa un 5-6, una cosa del genere. Beh, se vai è aperta ancora. Luca, piatto. Sì, ho visto, guardalo, grazie, quanto costa. Alla, per raffreddore, influenza, VIX, tuo alleato. Allora. Sentiamo. Minchia si può mattami, quello nel barattolino, che ci si fa di un bebè? Io quello lo adopero spesso, mica, non mi si sarra l'ulaso. Ma ho detto il Vixilex, grazie. Quello. Quello da. Non è proprio spray. Quello per il naso. Sì, se te qua domani vado me lo compro, tanto sarà aperto anche su al monte. C'è quello da 100 grammi. Adesso faccio un salto in quella farmacia. Quindi domani mattina se la faccio. Mi sa che passo da te, grazie. E poi vado in parafarmacia alla usciata. Anche. Ma quello Vixi inalatore è diverso, quello là se te lo metti quando prima di andare a letto, travaglia tutta la notte, compreso, e ti fa di più bene, sani prima, capito, fa più effetto. È buono anche quello inalante, però quello là funziona di più, fa di più effetto. Guarda, grazie, se non l'hai visto sono già le 8, mi sembra da mangiare, vai. No, io non ho giocato a mangiare santi, ho mangiato troppo bene in campagna. Magari mi posso rudere più tardi, adesso no. Già, vabbè, va, ripeto, a me l'arrosto mi piace. Però, cioè... Staziano! Ma avete mortireggi tutto. No, ha cotto mia figlia, chi che ha cucinato, sa se si è appogliato la carriola. Una carriola vecchia, c'ho anche quei bracci di cestino, però ha preso una carriola, ha preso dei mattoni refrattari che ci avevo lì assentati vicino alla rete, gli ha tutti i 20 bocchi dritti, gli ha fatto il piano, no? E l'ha preso appunto là, il bambino, un paio di pezzi di legna di abete. La stasera abbiamo posto un carbone, ha posto la graviglia manna canta la carriola, la pezza bruciata, quando si è calato, la pulita e ha arrucchito questa. Infatti, quando sta bruciosa il fumo, questa è giusta se l'ha fatta ai nonni, per non lavarsi in campagna, se l'ha fatta qua. Certo. Senti, butti le giubbe. Infatti, quando il padre di Marina fa l'arrosto, che non gli do la mano, butti le giubbe che non va più. E mangio mangiato pure la zionda a coccia lunga, metà brossolita sulla graviglia, buona vita con usare, e poi mangio mangiato un 3 o 4, ma sai quanto lavora, A me non piace, a me piace molto il pollo arrosto, si è fatto bene, con quella pellicina croccante croccante che purtroppo non la posso mangiare, per via dei calcoli, capito? Non lo sconsigliato di mangiare roba grassa. Però mi piace un bel. Per capocollo sei di quello buono. Ho solo la pancetta di quella sottile. C'avevo un bistecche, capocollo, pancetta. Però la cipolla non ti piace, se è dolce mintata, bocca è buona. Una volta che gli levi la pellicina, quella esterna, no? Che abbrustolita. Li metti un pizzico di sale, buona retta, è dolce mintata. Lo so, grazie, però non mi piace. Vabbè, la cipolla mi piace con la bianca, quando la mettevo nelle uova. Oppure... insomma... lo so, però non mi piace, lo so che l'ho assaggiato, non mi piace, lo fa... Prova a prenderla. E la fai quando c'è in campagna che sta brossolendo. Caspita, invece è buonissima. Si saporisce anche un bel a bocca. È buona, è saporita. A me mi piace malissimo. Caspita, io in genere si la vengo la bisù sempre. Pure qua in casa, l'altra sera l'ho fatta nel forno. L'ho messa sulla griglia e ho acceso il forno. Caspita, è buona. Lo so, grazie, però non mi piace, lo so, magari ti lascia un gusto buono, hai a gusti, non lo, cioè, tipo gli asparagi, non è che piace a tutti, a me piace un bel, per dire. Vedi, oggi dobbiamo avvicinarsi, ma lei sapesse finire ai libri, e lo canalone invece non avevamo più tempo, magari lì ce n'era oggi, di asparagi, non ci siamo andati. Perché stava pulendo i giardinetti e che ci sono all'entrata del cancello, c'è il piazzale, ci sono i giardinetti e ci sono i fiori, tutte queste cose così, capi? E sono uno, due, tre, e sono mannissimi. E li ha tutti puliti dall'erba, tappizzati. Ah, vai, tutto vedo pulito, tutto l'ingresso, va, non c'è più l'erba, né i fiori. Beh, quello ordinato, se va bene, dai. L'erba, se non era di là nessuno, cresce. E l'ha fatto lei, Chicca, e poi quando è venuta Debora, e cosa fanno in butto? Un fagiolone, un bombo esito, e l'erba tutta portata dietro dove bruciamo con la carriola. E lì c'è la roba da bruciare, e prima che si possa bruciare la bruciamo. Approfittale che poi lo puoi più bruciare. Ma non ce n'è molta, già c'è qualcosa, ma poi va, è meglio che si accara, adesso si seccherà, quando appena secca il monolumino la brucia subito, ma insomma, in campagna c'è sempre chi fa, ma non ho fatto nulla, non posso nulla, ero bussato, un po' con lente, un po' con la veranda, un po' con il piazzale, tutta questa specie di gazebo fatto di verde, perché il sole se stava fermo in certi punti da Russia, allora se si buoniva questa chimica, non lo so se va via un cappellino, sentiva che era caldo. Auto di Vandù, lascia Pilli, lascia Petro, vai! Non devi fare niente, grazie, ti fidare. No, ma buffone! Oh, manco per idea! Qualche cazzatella così che travaglio con la mano, bussato oppure in piedi, queste cose così già le faccio. Vado in casa arrabbiati, a me le voce. Tanto vai a muovermi, la roba me la sento. Ma tanto per andare e tornare qua dentro casa, per muoverti, non è che poi si sta sempre bussando o acciarato, Ma infatti, mi sta tanto a colpi d'aria, adesso non è tempo di... Poi quando stai meglio magari un colpo di mano gliela dai, così può stare fermo, ma se non ce la fai, fregatene, cosa stai, vuoi casare rischi, fa giunta, non te lo puoi permettere. No, non fai io andare a fare cose magari manuali che devi pigliare qualche peso, qualche sforzo, così. Non fa che mi viene subito la fanno. Se ti raggiungo stasera ho voluto fare una prova. So che arrivi dalla strada, proprio il lugar che era a bocca a bicchia. E cosa va via? Due scatolette, diciamo, e lo zaino con l'ossigeno. Ma infatti lo lascia più via tutti i siti. Sono che arrivi dall'ascensore, che palette era già stata da prima. Era un cadavere bianco che la sera a bocca a bicca. Così, c'aveva l'ossigeno. Ma infatti lo lascia perdere. Sembra un breco dall'ospedale e ti vuole fare i gossi, ma lascia più lì. Adesso sono i figli che sono bravi, dai. Già fatto niente. Lui va a Sarro che mi posso pure l'insulina, sto già lungo. Ci sentiamo domani, se vieni domani mattina te li do, verso che ora vieni, ce li ho qua pure. Grazie, vediamo, dai, ti mando un messaggio, ti chiamo magari, dai. se poi voi, se lo vuoi quel miscelatore te lo do, è buono, mi l'avevo svoltato dal lavandino prima di farmi il bagno, perché era buono, non ce l'ho buttato. L'avevo messo giù in garage ed era dentro questa busta. E ti billi burrucchio, ti borsi vi, a me non mi si. Ed è il lavandino del bagno, era quello. Però è buono, è nuovo. Vabbè, la si vi sempre. No, questa cosa, guarda, da poco mi è capitato la verità che... Non mi ha detto che c'è mamma a casa, al muro però, no? Mi sono detto, era un bel duro. È capitato che ne ho trovato uno, grazie. Era un po' messo male. Però tutto il blocco era buono, l'ho smontato, l'ho messo. Quello di mamma si è morbido, sembra un rubinetto nuovo. Tornato a nuovo. Vabbè, dai, a domani, grazie, dai. Mi ha fatto insulina, saluta la Paoletta, anche da parte di Marina, ciao. Ehi, ciao, a domani, ciao, salutoni anche da parte di Paoletta, ciao. Ehi, ciao.